Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba. Caserta, 8 ottobre. I nomi non li scriverei neanche se li sapessi, e non ne domando. Li ricorderanno purtroppo quelli che videro, e per tutta la vita li udiranno nell'anima, come furono detti dalla voce tremenda del dittatore. Nel primo cortile a sinistra di chi entra nel palazzo reale, i battaglioni di Taddei, Piva, Spinazzi, Menotti, Boldrini, col resto della divisione Bixio, aspettavano Garibaldi che voleva salutarli per la loro vittoria di Maddaloni. Quattro schiere davano le fronti ciascuna a un lato del cortile. «Microscopica divisione, fronte indietro!» gridò Bixio ai battaglioni, e non è mica uomo da aver detto per Celia. Quei battaglioni si chiamavano divisione prima del combattimento, così forse per far la voce grossa, ma non era neppure una brigata. Ora si potrebbero dir compagnie. Entrava allora Garibaldi. Teneva in mano il cappello all'ungherese e appena fu in mezzo al quadrato parlò. Eroi della 18ª divisione, in nome dell'Italia, io vi ringrazio. Poche altre cose, orazione picciola come sa far lui, poi subito i nomi di quelli che si segnalarono nel combattimento. Pareva che là dentro l'aria lampeggiasse di gloria, ma poi il volto di Garibaldi si oscurò. E la sua voce divenne fiotto di tempesta. Ora che ho ricompensato i valorosi, punirò i vili. Fu un fremito. Tre ufficiali chiamati a nome in mezzo a quel quadrato uscirono dalle file. Trovarono la forza di far quei pochi passi senza cader fulminati, e là, sotto gli occhi di lui, furono spogliati delle loro insegne da un aiutante maggiore, e non morirono. Finito quello strazio, il generale, continuando come uno che dà un addio a gente morta, disse: «Andate, inginocchiatevi davanti al vostro comandante, pregando di darvi uno schioppo, e al primo incontro, morite». Nel convento di Santa Lucia, 15 di ottobre. Stamattina si ebbe un gran fatto. Per la prima volta i soldati di Vittorio Emanuele combatterono davvero accanto dei volontari di Garibaldi. Dico davvero, perché già il 2 d'ottobre quel battaglione della Brigata Re che avevamo lasciato nella piazza del Palazzo Reale il giorno avanti, fu adoperato con pochi bersaglieri a far prigioniera quella tal colonna borbonica di Caserta Vecchia. Ma quello fu un fatto senza poesia. Invece stamattina i borbonici uscirono da capo a baldanzosi, marciando verso Sant'Angelo, dove trovarono i bersaglieri e la fanteria regolare che li soffiarono via come pagliuzze. Gareggiarono con essi i volontari del colonnello Corte a chi facesse meglio. Così la voglia di uscire di capo ai borboni potranno averla, ma l'ardimento forse mai più. «25 di ottobre. Sopra queste contrade deve essere passato non so che spirito. Gli abitanti ingrandiscono o impiccoliscono le cose per vezzo di dire. Il Volturnus celer è ancora sonante come nei versi di Lucano, una maestà di acque verdi che si incalzano clamorose. Eppure a un guado di esso fu dato il nome di scafa di Formicola. Quando vi passammo si rise del nomicino strano, sebbene si mettesse il piede sul ponte di barche che il dittatore fe gettare dal colonnello Bordone in quel luogo, e sentirsi oscillar sotto, crescere, scemare quelle tavole malconnesse, desse sgomento. Eravamo noi di Eber, quei di Bixio, quei di Medici, la brigata Milano, e vengono pure gli inglesi della legione, gente bella, vestita come noi, camicia rossa, divise verdi, ma di panno finissimo, cinture lucide come se tornassero dall'India. Il giorno è nefasto. cadde il cavallo del generale Bixio e l'eroe, rotta la testa e una gamba, si lasciò trasportare a Napoli, guardandoci con invidia. Non è che un uomo, ma senza lui pare che manchi qualcosa nell'aria. Ci siamo accampati sull'orlo di un bosco in cui potrebbe cavalcare Angelica Fuggente. Eppure lo chiamano Caianello, come se fosse un cesto di granetto fatto nascere per ornare il presepio. Intanto, che ci siamo venuti a fare? Là c'è Capua. I calabresi che abbiamo trovato qui ci dicono che i borbonici fanno delle apparizioni in quei fondi laggiù. A destra, lontano, abbiamo Gaeta. Chi dice che siamo qui per dare l'ultima battaglia e che mentre combatteremo contro i 50.000 borbonici che ancora tengono per Francesco II, arriveranno i soldati di Vittorio Emanuele con lui in persona discendendo dall'Abruzzo per la via di Venafro. Chi ribatte che da Venafro potrebbero venire delle buone anfore di vino, di quello antico che piaceva a Orazzi, ma che battaglie di campo, dopo quella del 1° ottobre, non se ne possono più avere. Allora si marcerà per incontrare il re. L'incontro di Teano. Il 26 di ottobre. Non lo dimenticherò mai. Vivessi 1000 anni, ma non saprò mai ridirlo preciso e lucido come mi guizzò nella mente il pensiero che già ebbe Catoni, conversando con me quella notte là, vagabondi per la campagna oltre Maddaloni. Sono quasi 600 anni. Carlo d'Angiò veniva in qua da Roma assegnato e benedetto dal Papa, e si pigliava la corona di Manfredi tra i morti di Benevento. Il Papa gliel'aveva data purché se la fosse venuta a prendere. Ma oggi, un popolano valoroso come, cosa importa dirlo, un popolano generoso come non sarà mai nessuno, semplice come Curio Dentato, delicato come Sertorio, anche fantastico come lui e sprezzatore come Scipione, in nome del popolo strappa quella corona al re di Napoli e dice a Vittorio Emanuele: «È tua». Ho quasi un capogiro, sono ancora pieno di quel che ho vedute. Scrivo. Una casa bianca, un gran bivio. Dei cavalieri rossi e dei neri mescolati insieme. Il dittatore a piedi. Delle pioppe già pallide che lasciavano venire giù le foglie morte. Sopra i reggimenti regolari che marciavano verso Teano. I vivi sotto gli occhi. E nella mente i grandi morti. A un tratto, non da lontano, un rullo di tamburi, poi la fanfara reale del Piemonte, e tutti a cavallo. In quel momento un contadino, mezzo vestito di pelli, si volse ai monti di Venafro e con la mano alle sopracciglia fissò l'occhio, forse a legger l'ora in qualche ombra di rupi lontane, ed ecco un rimescolio nel polverone che si alzava laggiù, poi un galoppo, dei comandi, e poi viva, viva, il re, il re. Mi venne quasi buio per un istante, ma potei vedere Garibaldi e Vittorio darsi la mano e udire il saluto immortale. Salute al re d'Italia. Eravamo a mezza mattinata. Il dittatore parlava a fronte scoperta, il re stazionava il collo del suo bellissimo storno. Forse nella mente del generale passava un pensiero mesto, e mesto davvero mi pareva quando il re spronò via ed egli si mise alla sinistra di lui, e dietro di loro la diversa e numerosa cavalcata. Ma Said, il suo cavallo che lo portò nella guerra, sentiva forse in groppa meno forte il leone e sbuffava e si lanciava di lato, come avesse voluto portarlo nel deserto, nelle pampas, lontano da quel trionfo di grandi. Paranise, 27 ottobre. Ma allora, se così fosse come si sussurra, ogni cosa sarebbe spiegata. Re Vittorio fu freddo nell'incontro con Garibaldi? Gli è che Francesco II è suo cugino e che egli lo aveva invitato alla gran guerra contro i nemici d'Italia ammonendolo. Anche se aggiunge che esista una lettera, Francesco non volle o non poté dargli ascolto. Fortuna d'Italia. ostinato e impotente continuò la storia di suo padre, e ora paga per lui. Dunque certo contegno di Vittorio Emanuele nell'incontrarsi col dittatore sarebbe stato un delicato riservo? O hanno ragione quelli che pensano che allora egli meditasse le strane sorti dei re? Però noto che questi sono discorsi. Passano come venticelli che non lasciano nulla. Non si sente che la grandezza di Garibaldi, sinora. Non si conosce che vi sia chi mira il sole nascente. Ieri il dittatore non andò a colazione col re, disse di averla già fatta, ma poi mangiò pane e cacio conversando nel portico di una chiesetta, circondato dai suoi amici, mesto, raccolto, rassegnato. A che rassegnato? Ora si ripasserà il Volturno, si ritornerà nei nostri campi o chissà dove. Certo non saremo più alla testa. Ci metteranno alla coda. Dicono che il generale lo disse a Mario. E questa deve essere la spina del suo gran cuore che voleva 1.000.000 di fucili da dare all'Italia. E l'Italia non diede che 20.000 volontari a lui. Napoli, 2 novembre. Tuona lontano il cannone. Bombardano Capua e noi non vi siamo più. Gli artiglieri di Vittorio Emanuele non avranno gran da fare, perché la guarnigione non aspetta che un motivo onesto per arrendersi. Già il Griziotti, colonnello nostro, lo aveva detto. Generale, lasciatemi lanciare 2 bombe sulla cittadella e si arrenderà. No, se un fanciullo, una donna, un vecchio morisse per una bomba lanciata dal nostro campo, non avrei più pace, disse Garibaldi. E Griziotti, ma i nostri giovani si consumano di febbre in questo assedio, ogni giorno si assottigliano, muoiono. E Garibaldi e lui, ci siamo venuti anche a morire. Arriveranno i piemontesi, generale, essi non avranno riguardi, con poche bombe faranno arrendersi la città, poi diranno che tutto quello che facemmo sino ad ora, senza di loro non avrebbe contato nulla. Garibaldi, allora, lasciate che dicano, non siamo mica venuti per la gloria. Napoli, 3 novembre, il giorno dei santi, poi quello dei morti, poi quello delle medaglie a noi, terza festa nella malinconia della stagione. Là, in faccia alla reggia, dove tutto dice che i Borboni non torneranno più, la piazza di San Francesco di Paola era parata di bandiere. In mezzo un seggio, delle dame, dei generali, dei grandi intorno al dittatore che ancora aveva il cappello di Marsala. Vidi il Carini, ora generale, balioso, ringiovanito, col braccio al collo, pareva felice. Noi davamo le spalle alla reggia, aspettando. A un certo punto il dittatore si alzò e venne verso noi dicendo con la sua voce limpida ed alta: «Soldati della indipendenza italiana, veterani benché giovani dell'esercito liberatore, vi consegno le medaglie che il municipio di Palermo decretò per voi. Cominceremo dai morti, i nostri morti». E allora un ufficiale cominciò a chiamare a nome i morti, che rispondevano in noi con l'improvviso ritorno della loro visione. Ma passato questo giorno, non saranno ricordati solennemente mai più. Furono da 100 nomi di umili ignoti o di illustri, e a ogni nome un fremito correva tutta la nostra fila. Quando toccò a noi, si andò chiamati ad uno dinanzi al seggio, dove una giovinetta, alzandosi sulla punta dei piedi, ci metteva la medaglia sul petto, intanto guardava di sotto in su con 2 grandi occhi gioiosi. Chi fosse, non so, né chiesi di lei. Che giova il nome! Udì il generale che, volgendosi a una dama vicino a lui, diceva: «Vede, quelle facce le conosco tutte. Le vedrò finché vivrò». Intanto le bande suonavano e quella dei granatieri pareva dicesse: «Basta, ora basta, andate!» Caserta,